Io l'ho saputo da lei perché vado a portarle con altri volontari della comunità di Sant'Egidio da mangiare alla sera. Quel giorno aveva preso la multa. Lei prende, lei normalmente fa le, chiede l'elemosina sotto il ponte monumentale di Genova, che è un luogo centrale, la via principale di Genova. È una donna molto tranquilla che non fa una questua insistente o fastidiosa, quindi mi ha stupito questa cosa qui, perché appunto lei normalmente appunto è anzi molto, molto cara, molto sorridente e anche ben voluta dalla gente. Ora appunto lei era disperata perché appunto questa multa sicuramente è pesante per lei, perché chiaramente non ha i soldi per pagarla, però aveva paura che poi le pignorassero la pensione che prende al suo paese, che corrisponde a tutta la multa, diciamo, una pensione di un mese, quindi era un po' disperata per questo. Poi appunto alla vicenda come sia andata, ho letto sui giornali poi che i vigili erano stati chiamati dai commercianti, perché non so, lei è in quel posto abbastanza periodicamente, stabilmente, non ha mai dato problemi. Ci sono altre persone che fanno una questa molto più molesta e che potrebbero, diciamo, non dico giustificare, comunque potrei capire un qualche intervento. Nel suo caso sicuramente mi pare eccessiva, diciamo. La multa per la questua viene da normative della nuova giunta? Ma io, guarda, questo non glielo so dire. Vedo che lì hanno applicato un articolo del regolamento comunale che cita il discorso del bivacco in luoghi della città, eccetera, eccetera. Ora, se dovessero applicarla a tutti i genovesi e i turisti, una cosa simile penso che farebbero molti a tutti. Sicuramente la nuova giunta ha fatto proclami di inasprire, eccetera. Non so dirle se questo regolamento in particolare l'avessero già messo prima, se l'abbiano messo quelli della nuova giunta. Sicuramente hanno dato mandato alla Polizia Municipale di applicarlo con più severità. Ci ricordiamo anche la polemica di qualche settimana fa sull'idea di multare chi rovista nei cassonetti. Sicuramente un tema sensibile. È un po' un cavallo di battaglia dell'assessore particolare alla sicurezza, eccetera, quindi chiaramente poi alla fin fine appunto sono inasprimenti per la vita dei più deboli e di quelle persone che poi alla fin fine hanno più problemi. Non è che forse l'utilità del lavoro del comune sarebbe quello di risolverli questi problemi, non di inasprirli con sanzioni che poi alla fine appunto lasciano il tempo che trovano, sono più operazioni di facciata. Questa gente andrebbe aiutata, non multata. Ovviamente queste cose non succedono solo a Genova, insomma succedono in diverse città d'Italia. Dal suo punto di vista, c'è, come dire, la povertà è diventata una sorta di colpa? Beh, un po' sì, eh. Alla fin fine, invece di affrontare i problemi della gente, si vedono queste persone povere come dei problemi. In realtà invece appunto è gente che andrebbe appunto sostenuta, aiutata. È come le famiglie rom che gli si tolgono i bambini invece che aiutarli a integrarsi, a mandare i bambini a scuola. Sono tutte situazioni che appunto con un minimo di intervento lungimirante potrebbero essere risolte, invece con interventi di facciata appunto aizzano forse appunto i peggiori sentimenti della gente, ma non risolvono il problema. Quindi nella popolazione genovese, come dire, c'è ancora un sentimento di solidarietà o prevale l'indifferenza e il fastidio? Sicuramente, fortunatamente, c'è tanta brava gente. Infatti tanti penso che si siano anche indignati di questo fatto sui social, proprio perché è una reazione a situazioni abnormi. Poi chiaramente sui social ci sono anche quelli che vomitano livore, eccetera. Ti dico, sicuramente io dalla mia esperienza vedo che c'è tanta brava gente che si interroga come aiutare, tanti ci contattano vedendo le situazioni per strada per chiederci cosa si può fare, eccetera. Il dramma è che queste cose dovrebbe affrontarle la civica amministrazione, e invece la gente deve rivolgersi a volontariato, alle parrocchie, a Sant'Egidio, alla Caritas, e non ha un interlocutore nel comune. Questo è il problema. Cioè il comune è sempre l'interlocutore per soluzioni non spot come queste repressive, capisci?